Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Quando parliamo di droni, a tutti vengono in mente l'Afghanistan e il ruolo che questi mini aerei privi di pilota, ma non di armi, stanno svolgendo nelle zone di guerra. Tuttavia, il settore militare, seppure forse è stato il primo, diciamo, in ordine di tempo ad avvalersi di queste tecnologie, è oggi solo uno dei tanti che usa droni aerei. Ultimamente, infatti, si sono diversificate tanto le tecnologie per costruire apparecchi volanti quanto le loro applicazioni, e soprattutto questi sistemi sono scesi di prezzo, o comunque sono state sviluppate soluzioni poco costose per il volo, che stanno portando ad una rapida diffusione dei droni in ambiti che erano impensabili fino a pochi anni fa. Ne sa qualcosa Sal Engineering, che è una startup che è nata l'anno scorso da 7 soci con alle spalle tanti anni di passione per il modellismo aereo e per il volo, che hanno deciso di buttarsi nella progettazione, costruzione e commercializzazione di questi sistemi cosiddetti UAV, cioè Unmanned Aerial Vehicle, quindi aerei senza pilota, oppure ROV, Remotely Operated Vehicle, veicoli operati remotamente, che non sono necessariamente volanti, possono essere sottomarini, anche apparecchi terrestri. Però è soprattutto di droni aerei che vogliamo parlare, in particolare questa sera di un tipo di drone, i cosiddetti ragni volanti, che mi pare si stiano veramente diffondendo molto rapidamente. Ne parliamo con uno dei soci di SAL, Francesco Mattucci, che è in linea con noi. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, intanto ci descriva questi ragni volanti. Ma i ragni volanti, il nome tecnico sarebbe multirotori. Ok. Diciamo. Tutti lo sì, si vengono comunemente chiamati ragni volanti, sono delle macchine elettriche dotate di 4, 6 o 8 motori, e quindi 4, 6 o 8 eliche che possono librarsi in aria facendo qualsiasi tipica evoluzione. Ecco, 8 eliche sono degli elicotteri questi qua. Sono degli elicotteri autostabili che permettono tutte le manovre delle elicottero, possono volare a bassissima quota, possono fermarsi in aria, possono compiere qualsiasi evoluzione anche molto vicini a edifici o piante o qualsiasi altro tipo di ostacolo. Ecco, quando diciamo ragno, immaginando un ragno, diciamo ci sono che ha 8 zampe, appunto ci sarebbero 8 eliche sulle punte delle zampe per dare un'idea. Sono 8 aste al termine delle quali è installato un motore elettrico e relativa elica. Il tutto poi viene controllato da una centralina elettronica al centro dell'apparecchio. E questi oggetti si possono portare dietro un carico col quale si fa l'attività utile, mettiamolo in certo. Questi termini, e si possono fare una quantità di cose sorprendenti. Ce ne racconti un po'? Ma, per esempio, i droni vengono utilizzati in caso di calamità naturali o per il monitoraggio delle zone disastrate da terremoti o da alluvioni. Vengono fatti alzare in volo. Voi avete fatto questa attività, no, di recente? Noi abbiamo fatto di recente purtroppo questa attività, sì. Vengono fatti alzare in volo, fanno una ripresa della zona interessata. I droni sono equipaggiati con dei sistemi GPS che contestualmente certo. Alla registrano la posizione del drone. Esattamente, registrano la posizione del drone. Quindi al ritorno l'operatore riesce a vedere immediatamente con certezza dove sono i danni e di che tipo sono i danni, perché poi i video che scendono possono essere illumati, fatti tornare indietro, fatti andare avanti, e sono sempre sovrapposti ad una carta geografica che dà il punto esatto georeferenziato del punto col problema. Altri esempi, diciamo, per passare dal serio al faceto? Per esempio le videoreprese, che possono essere okay. A scopo promozionale, piuttosto che adesso per esempio con i droni si fanno riprese e fotografie anche dei matrimoni per avere addirittura un diverso, sì, una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile, però certo. È un servizio che viene comunemente offerto ormai. Senta, anche per esempio la ricostruzione tridimensionale di alcuni edifici, per esempio, si può fare con questi apparecchi. Penso a tutti gli edifici di pregio italiani, no? Assolutamente, ricostruzioni 3D degli edifici, e per andare a individuare particolari di pregio architettonico altrimenti difficilmente accessibili, e soprattutto per il contrasto dell'abuso edilizio. Senta, trasporti? I trasporti, adesso se ne è molto parlato dei trasporti dopo la buttata di Amazon, che diceva che vuole consegnare i suoi pacchi attraverso i droni. Ah, ma va? Allo stato attuale delle cose non è ancora fattibile. Non è forse molto conveniente, ecco, insomma. Ma insomma, soprattutto in cielo ci sono poi degli ostacoli, cominciare a consegnare all'interno di città con fili, lampioni e tutte queste cose non è molto difficile. Però, per esempio, trasporto di, mi viene in mente un progetto che stiamo seguendo, di sacche di sangue o strumenti sanitari da un ospedale all'altro per evitare di far muovere un'ambulanza, questo è senz'altro possibile. Cioè lei dice, a volte per mandare una sacca di sangue da un ospedale all'altro bisogna far partire un'ambulanza che impiega più tempo, consuma molta energia, consuma anche personale, diciamo, ci vuole qualcuno che la guidi, quando questa operazione potrebbe avvenire in un attimo con uno di questi apparecchi, no? Assolutamente. Grazie allora Francesco Mattucci e buon lavoro, buona fortuna con la vostra impresa. Grazie e buonasera a voi. È tutto, a lunedì.